E, un fatto innegabile, che tutti crediamo di agire con la giusta sapienza, perché se così non fosse, penseremmo diversamente e ci comporteremmo in un altro modo. Ma qualcosa non va, perché la mancanza di armonia nelle relazioni indica palesemente che si commettano tanti errori causati evidentemente dalla nostra ignoranza. Per questo sono arrivato a concludere che, anche se si è profondamente convinti di possedere la sapienza di Dio, non è così. Dato che a nulla serve discutere su chi ha ragione o torto, mi chiedo quali caratteristiche possiede la vera sapienza o la sapienza che procede da Dio. È sufficiente fare sfoggio della propria conoscenza, anche se questa è conforme al volere di Dio? Sì, è qualcuno che è in grado di rispondere a queste domande? Grazie a Dio sì, anche perché nella Bibbia, un libro dove i diversi temi non sono affrontati in modo sistematico, meno è precisamente nella lettera di Giacomo, il fratellastro di Gesù. Sì, è una risposta ben precisa a questo importante argomento. Del resto anche altrove è possibile trovare abbondanti argomenti su altri temi, come quello della fede, descritto al capitolo 11 della lettera agli Ebrei, o quello della resurrezione, descritto al capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Il testo in questione sulla sapienza che procede Dio è il seguente. Chi è saggio e intelligente fra voi? Mostri con la buona condotta le sue opere fatte con mansuetudine di sapienza. Ma se nel vostro cuore avete gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Questa non è la sapienza che discende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica, dove infatti ci è gelosia e contesa, lì ci è turbamento ed ogni sorta di opere malvagie. Ma la sapienza che viene dall'alto prima di tutto è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia. Ora il frutto della giustizia si semina nella pace per quelli che si adoperano alla pace. Giacomo 3, 13-18. Giacomo inizia con il porre la domanda sull'identità di colui che è saggio e intelligente, perché evidentemente, anche al tempo degli apostoli, vi erano persone che si ritenevano tali. Molto probabilmente facevano ragionamenti più che convincenti, ma Giacomo, da buon ebreo, chiede subito di mostrare tale sapienza con una condotta adeguata, perché tra gli ebrei la sapienza è, prima di tutto, l'arte di vivere e non l'accrescimento puramente intellettuale che si conquista con lo studio. Infatti, ed è bene rimarcarlo, la peculiarità della sapienza di Israele non era il trascendente, ma l'umano e il quotidiano. Era la capacità di mettere a frutto la propria esperienza, una virtù profondamente umana, anche se non esclude la sfera religiosa. In effetti, compiere opere con mansuetudine di sapienza significa opere sottoposte all'arte del vivere piuttosto che esplosioni sentimentali ingovernabili. Ma, continua Giacomo, se ciò che fate produce gelosia amara e spirito di contesa, sappiate di non avere nessuna ragione per vantarvi della vostra sapienza, perché facendo così mentite contro ciò che è vero. Infatti il vero è che ogni spirito di contesa è sbagliato, e per quanto individualmente lo riteniate giusto, state ritenendo giusto ciò che è sbagliato. Ebbene, continua Giacomo, questo atteggiamento e questo modo di considerare le cose non è il prodotto della sapienza che viene da Dio, ma si tratta di quella sapienza che procede dall'uomo, una sapienza terrestre e diabolica, cioè procedente dal diavolo. La prova che tale sapienza venga dal diavolo è che essa produce turbamento o disordine e anche comportamenti che non generano benessere. Perciò, continua Giacomo, ora vi spiego come è la sapienza che procede da Dio. Prima di tutto, eppure, non servono lunghi discorsi per definire la sapienza che procede Dio, non servono accesi dibattiti per comprenderla, perché prima di ogni altro ragionamento, la vera e giusta sapienza è pura. Punto e basta. Se non è pura, non è la sapienza di Dio. Come chiedersi quale acqua faccia bene all'uomo? La gassata, la naturale o quella cristallina. A nulla servono le conclusioni. Se non è pura, non è adatta per l'uomo. Così la sapienza di Dio, prima di esaminare se è opportuno un certo comportamento, bisogna chiedersi se quel comportamento è puro, cioè finalizzato a dare gloria a Dio, se produce del benessere al prossimo e a noi. Faccio bene a parlare di quella cosa, chiediti, viene onorato Dio e il suo regno, la persona con la quale parlo è edificata? Io posso ringraziare Dio per quello che ho detto? Se ho dei dubbi, è meglio che mi astenga in attesa di ricevere una convinzione certa da parte di Dio mediante la preghiera e lo studio della parola di Cristo. Pacifica. Possedere una sapienza pacifica significa che essa deve produrre calma e serenità, tanto in chi la possiede quanto in chi l'ascolta. In effetti, un atteggiamento di preghiera, un forte e sano desiderio di predicare il Vangelo, un santo ardore di aiutare il prossimo, possono contenere uno spirito pacifico, ma se nel mettere in pratica tali propositi si creano divisioni o turbamenti negli animi, è saggio desistere dall'iniziativa e valutare cosa eventualmente non vada. Dobbiamo ricordare che anche le più buone intenzioni possono creare grandi squilibri e difficoltà, perciò non dobbiamo essere ostinati nel compiere opere del genere. Se nel mio ardore desidero che la Chiesa alla quale appartengo presenti il Vangelo agli zingari, ma la Chiesa rimane sconvolta e impreparata di fronte alla prospettiva di un tale compito, devo ritenere la mia iniziativa e sapienza non provenienti da Dio e aspettare il momento eventualmente più opportuno per adempierla. La sapienza che procede da Dio non solo deve essere pura e pacifica, ma anche accettevole. Non tutte le buone intenzioni procedono da Dio, come quella del re Davide quando desiderava costruire un tempio a Yahweh. Pur approvando le sue buone intenzioni, Dio non glielo permise. Mite o affabile, una delle grandi rovine nell'opera di Dio e nelle comunità non sono i peccatori e nemmeno i fannulloni, ma i bufali che corrono all'impazzata, cioè coloro che non ascoltano niente e nessuno. In effetti, la vita cristiana è un lavoro di squadra, dove ci si consiglia, dove si ascoltano altre opinioni, ma avere un filo diretto solo con Dio può essere una delle più grandi rovine. Una sapienza mite consiste nell'avere anche idee chiare o opinioni precise, ma essere disposti a rivedere il tutto quando si cerca un programma comune. Tu sei convinto della tua opinione, ma non la farai valere, se questo è un motivo di turbamento per la comunità. Ciò che importa non è l'avanzare della tua opinione, ma che la Chiesa tutta insieme proceda nel suo cammino. Può darsi che tu veda sbagliato un matrimonio tra due divorziati, ma se tutta la Chiesa la pensa diversamente, una campagna elettorale a tuo favore non procede da una saggezza divina. Proprio perché il cammino cristiano non è omogeneo, la sapienza che viene dall'alto non punta i piedi su temi molto discutibili. Docile, O-A-R-R-E-N-D-E-V-O-L-E. Mentre il termine mite dà l'idea di lasciarsi condurre, il termine docile, meno pur essendo un sinonimo di mite, rende l'idea di chi cerca un compromesso. Il compromesso non nutre molto rispetto, e anche se è vero che la fede cristiana non deve scendere a compromessi, a volte per quello che riguarda le cose pratiche, bisogna scendervi, perché non è possibile, in un mondo imperfetto quale il nostro, comportarsi perfettamente in certe situazioni. Dovevo rinnovare la patente e un ispettore, saputo che ero diabetico, non voleva accordarmela. Andai dai carabinieri, chiesi pareri in vari uffici, ma nessuno aveva una proposta in merito. Disperato andai dal dottore, il quale mi consigliò di richiederla in un'altra scuola guida. Mi diedero la patente. Quando le stesse leggi italiane non hanno precise regole, a volte bisogna scendere a compromessi ed agire secondo coscienza. Non per ingannare la legge, ma per evitare le inutili e a volte dannose burocrazie. La sapienza che viene da Dio è in grado di farci capire che essere docili non significa essere tonti. Piena di misericordia e di frutti buoni, sembra che la misericordia sia una virtù sconosciuta. Il dizionario italiano definisce la misericordia quel nobile sentimento di compassione attiva verso l'infelicità altrui, di solito promosso da una virtuosa inclinazione alla pietà o al perdono. Purtroppo mi sono accorto di come abbiamo idealizzato e, direi persino divinizzato, i nostri sentimenti umani di compassione, al punto da ritenere ciascuno di essi sempre proveniente da Dio. Misericordia non significa debolezza. La vera misericordia guarda in faccia alla realtà. Riconosce la giusta colpa, ma non agisce di conseguenza. La sapienza che procede da Dio non nasconde la faccia di fronte al male, ma non fa pagare le conseguenze degli errori commessi. Questi sono i frutti buoni. Senza parzialità, avere un solo metro di misura, cioè avere una sapienza non corrotta, è molto più difficile, meno anche se sembra impossibile, meno che amare il prossimo. Lo ha fatto notare Giacomo nella sua lettera quando scrisse: se veramente adempite la legge regale secondo la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene, ma se usate favoritismi personali, commettete peccato e siete condannati dalla legge come trasgressori. Giacomo 2, 8 a 9. La sapienza che procede da Dio è una condotta a favore del prossimo. Perciò amare il prossimo significa anche essere imparziali, dato che tutti siamo creature di Dio. L'imparzialità è molto probabilmente una delle virtù più difficili, come vediamo nei tribunali, dove la legge è, sì, uguale per tutti, ma l'interpretazione della legge no. Così è anche nel campo religioso. Vi è una sola legge, quella di Dio, ma molte volte le decisioni risentono di interessi, di legami familiari, dell'onore. È molto difficile mettere in pratica la sapienza che procede da Dio. Un conduttore di chiesa era contrario al matrimonio di seconde nozze, ma quando sua figlia fu abbandonata dal marito scrisse un libro a favore di esse. Perché? Perché il più delle volte la sapienza divina è il risultato dell'esperienza di una vita. Ma spesse volte la conoscenza delle vie di Dio è il risultato di pura teoria, una teoria che disumanizza la vita cristiana. La sapienza che procede da Dio tiene conto della debolezza dell'uomo, o meglio, si ricorda della sua umanità. Salmo 103,14 libera la prostituta dalla lapidazione. Giovanni Capotto è in grado di dare una seconda o una terza possibilità a chi rinnega il proprio Salvatore. Giovanni Cap 21 sa trovare il bene in luoghi insospettati. Apocalisse 2,6-13. 3, 4. Senza ipocrisia non bisognerebbe ordinare ai credenti di non essere ipocriti, ma se lo ha fatto Dio Gesù Cristo, significa che è una trappola nella quale cadono anche i figli di Dio. L'ipocrisia è quella sapienza che vuole nascondere i veri motivi o nasconde la realtà delle cose. Purtroppo, questo è il metodo normale di molti teologi, cioè di quegli uomini che parlano di Dio, ai quali Gesù rivolse queste parole: «Guai a voi, dottori della legge! Perché avete sottratto la chiave della scienza, voi stessi non siete entrati e ne avete impedito l'accesso a coloro che entravano». Luca 11,52. La sapienza che procede da Dio produce chiarezza, armonia e pace, quella pace ricercata da tutti quelli che utilizzano la pace come mezzo per proclamare il Vangelo e per dare gloria a Dio. Se la sapienza che procede da Dio è pura, poi pacifica, mite, docile, piena di misericordia e di frutti buoni, senza parzialità e senza ipocrisia, va da sé che suscita quell'armonia divina e umana che permette di vivere saggiamente, giustamente e piamente, Tito 2,12. È anche per questo che amo la sapienza procedente da Dio. Gennaio 2013, Ellero.